Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Da oggi fino a fine settimana inizieremo un ciclo di puntate dedicate ad un evento al quale io tengo moltissimo, perché è il frutto di anni di lavoro racchiuso in un libro che si chiama Economia Criminale, storie di capitali sporchi e società inquinate, che dal 20 maggio, quindi tra pochi giorni, sarà in edicola per un intero mese in vendita con Il Sole 24 Ore. In questo libro di 304 pagine racconto alcune, solo alcune, delle storie positive e delle storie negative nelle quali mi sono imbattuto in questi anni di lavoro al Sole 24 Ore come inviato e qui in radio. Racconto storie di penetrazione di capitali sporchi dove? Soprattutto al nord. Al nord perché questo è il terreno di conquista da anni delle mafie. E parlo quindi del Piemonte, della Liguria, della Valle d'Aosta, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, di San Marino, che Italia non è, ma è alle porte, è dentro il nostro Stato. E inevitabilmente parlerò di un'altra regione, quella che io considero il buco nero, non soltanto in Italia ma in Europa, che è la Calabria, con la forza delle cosche dell''Ndrangheta che ormai hanno risalito la penisola, come la linea della Palma di sciasciana memoria, e ormai veramente inquinano tutta l'Italia, ma non solo. Per cominciare questo percorso, questo racconto di questo libro, con alcuni protagonisti, e molti li troverete nel libro, oggi cominciamo con chi? Beh, con un uomo nei confronti del quale va la mia stima profondissima, il mio senso di gratitudine, di riconoscimento, non soltanto il mio ma dovrebbe essere di tutti gli italiani. È il capo della Procura della Repubblica di Torino, Giancarlo Caselli, che ha un pedigree che non ha bisogno di presentazione, ma una cosa ci tengo: 7 anni trascorsi a Palermo, per i quali dico ancora grazie. Buongiorno Caselli. Buongiorno a voi. Allora, inizierei proprio con questa semplice riflessione che io ripropongo nel libro. Quanto a suo giudizio, lei che è un uomo del nord, che da uomo del nord ha lavorato per anni in Sicilia, quanto è diffusa la consapevolezza tra i concittadini del nord della forza, della pervasività delle mafie nell'economia sana che sta erodendo, ma anche nella società? Credo piuttosto poco. L'importante è che le cose tengano, se poi ci sono dei lati oscuri o anche soltanto opachi ne parleremo poi. E invece, innanzitutto, così la disattenzione, la mancata presa di coscienza, la mancata messa in campo degli antidoti necessari crescono. Ecco, ma chi deve mettere in campo questi antidoti? Io vorrei soffermarmi soltanto su un soggetto, su un protagonista, lo scelga lei Caselli, perché spesso si dice la Chiesa, il Comune, lo Stato, che poi quando si dice lo Stato si dice tutto e non si dice nulla, no? Oppure si chiamano in campo le prefetture, i giornali. Dovesse scegliere lei un protagonista, una parte attiva della sensibilizzazione su questo tema, chi sceglierebbe e perché? Io credo che l'informazione, non per scaricare su altri, su chi in questo momento è il mio interlocutore, certo, le responsabilità, abbia un ruolo assolutamente decisivo in questa materia. Perché, come dire, la crescita di consapevolezza, la presa di coscienza che si tratta di un problema davvero nazionale, non soltanto circoscrivibile a certe aree o a certe attività economiche, cresce intanto in quanto l'informazione sia robusta. Assolutamente. Invece nel nostro paese da sempre, ma oggi come sempre, soffriamo di un limite culturale evidentissimo che inceppa le analisi e le risposte, quello di concepire le mafie pressoché esclusivamente, se non esclusivamente, come problema di ordine pubblico, cioè ce ne occupiamo quando pongono in essere strategie sanguinarie, ammazzano, certo, fanno stragi, altrimenti tendiamo a non occuparci, a disinteressarcene. E non soltanto al di là della cronaca del fattaccio appena successo, l'inchiesta praticamente non esiste più. Mi fa piacere che lei sottolinei il ruolo dell'informazione, non soltanto perché sono un giornalista, non soltanto perché ormai da anni tra quotidiano, blog e radio su questo fronte sono schieratissimo, non soltanto perché esce il libro, ma perché l'informazione è il sale della democrazia. Senza quello non c'è presa di coscienza. Non c'è dubbio. E qui però non possiamo non aprire una parentesi, sulla riforma che sta per essere varata relativamente alle intercettazioni telefoniche. Assolutamente. Quindi il rischio che l'informazione subisca delle mazzate vere e proprie, certo. È gravissimo, di inchieste importantissime, anche per quanto concerne dati non più coperti da segreto. Se passa questa riforma non si può parlare se non quando le indagini sono finite. Assolutamente. In casi più gravi, se non quando vi è stato un rinvio a giudizio. Certo. Quindi, certo, mediamente un ritardo di anni che rende la conoscenza anche di notizie non più coperte dal segreto istruttorio vanificata oppure ritardata. O assolutamente superflua. Quel silenzio probabilmente giova a qualcun altro, giova a chi vuole tenere l'informazione celata. Questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano, ma ovviamente da operatore dell'informazione non posso che schierarmi con quanto dice Giancarlo Caselli e invito tutti a considerare l'informazione come un bene prezioso. Poi sono d'accordo con voi, mi direte, ma quanti giornalisti non sono credibili? Sono d'accordo, ma non dobbiamo prendere i soggetti, dobbiamo prendere l'oggetto. L'informazione è il sale della democrazia. Caserino, le vorrei fare un'altra domanda. Allora, in queste storie che racconto al Nord mi sono imbattuto in un fenomeno che probabilmente non è conosciuto, anzi, proprio per quello che dicevamo adesso, sarà conosciuto da pochi letti, da chi legge le mie inchieste e quelle di valorosi colleghi che le fanno presso altre testate. Il fenomeno è questo: in molte regioni del Nord, dico per tutta la Lombardia, ma forse questo discorso vale anche per il Piemonte, si parla di seconda o terza generazione, quindi di una mafia che non parla più con il dialetto calabrese o siciliano o campano, ma parla con un accento piemontese, lombardo o veneto, e che ha un cordone ombelicale ormai quasi rescisso con la madre patria, vale a dire con le cosche che operano sul territorio in Calabria piuttosto che in Sicilia o in Campania. Da questo punto di vista, in Piemonte e in Valle d'Aosta, qual è la situazione? Piemonte, Valle d'Aosta, Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Italia non fanno eccezione a quella che purtroppo è una regola. L'espansività della mafia, e man mano che questa espansione diventa concreta realizzazione, anche una mutazione della qualità del mafioso, che da criminale diventa sempre più imprenditore, da persona con coppola lupara diventa persona con doppio petto, ufficio non so dove, via seguitando. Certo. Ma attenzione, non è una novità. Io ho qui sotto mano, perché è una specie di breviario che mi aiuta nei momenti in cui bisogna spiegare alcune cose, soprattutto agli studenti, una celeberrima, tristissima per molti profili, intervista, che è quella che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo in quel momento, rilasciò pochi giorni prima di essere ucciso dalla mafia a Giorgio Bocca. E tra le altre cose, attenzione, Dalla Chiesa parla nel 1982, 28 anni fa, certo. Durante questi 30 anni è cambiato un'infinità di cose, una in particolare abbiamo dovuto registrare, la cosiddetta globalizzazione, che ha determinato una maggiore, quantomeno, facilità di circolazione di uomini, donne, beni, servizi, denari, eccetera. Ma già nell'82 Dalla Chiesa diceva le cose che ora leggerò, che vanno conseguentemente proiettate sull'oggi, moltiplicate per un milione, per un miliardo. Le cose che già allora c'erano, oggi sono aumentate in misura assolutamente esponenziale. Ecco cosa diceva Dalla Chiesa. Bocca gli chiede se l'Italia si interessa abbastanza della mafia, e Dalla Chiesa rispondeva no, non se ne disinteressa, e sbaglia. E allora Bocca di rincalzo: perché sbaglia, generale? Sentiamo la risposta, è illuminante. La mafia ormai sta nelle maggiori città italiane, 1982, dove ha fatto grossi investimenti edilizi o commerciali, magari industriali. Vede, a me interessa conoscere questa accumulazione primitiva del capitale mafioso, questa fase di riciclaggio del denaro sporco, queste lire rubate, storte, che architetti o grafici di chiara fama hanno trasformato in case moderne, alberghi, ristoranti alla page. E bisognerebbe ancora di più la rete mafiosa di controllo, che grazie a quelle case, a quelle imprese, a quei commerci, magari passati a mani insospettabili, ecco questo mani insospettabili, la risposta alla domanda, certo, di Galullo, mani insospettabili corrette, sta nei punti chiave, assicura i rifugi, procura le vie di riciclaggio, controlla il potere. Il mafioso di seconda, terza, quarta generazione c'era già nel 1982, mani insospettabili corrette. Purtroppo è una realtà triste che ci ricorda Caselli, e ne troverete traccia anche nel libro, perché nel mio libro, appunto dal 20 in edicola, troverete un saggio di Moises Naim, economista, editorialista del Sole, che parla proprio di un'economia che non conosce crisi e dell'economia del crimine globalizzato. Ahimè, purtroppo in 30 anni nulla è cambiato, anzi è peggiorato. Io ringrazio Giancarlo Caselli per il suo intervento, ringrazio in regia Filippo Aureggi, Elisabetta Fusconi in assistenza studio e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.